Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti, punti da Frey e Olga. Dopo la pausa pasquale torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Oggi è il 7 aprile e non potevamo non occuparci di un processo che prende proprio il nome di questa data, una data fatidica per certi versi. Il 7 aprile 1979, nel telegiornale della sera Italiani e Italiane, apprendono che il capo delle BR, anzi il capo di tutti i movimenti sovversivi della sinistra extraparlamentare, ha un nome e cognome. Si chiama Antonio Toni Negri ed è in quel periodo professore dell'Università di Padova alla Facoltà di Scienze Politiche. L'accusa? Insurrezione armata contro i poteri dello Stato e concorso in omicidio per il sequestro Moro. Non erano state trovate armi o prove che potessero far pensare che in effetti Toni Negri fosse il colpevole di accuse così pesanti. Immaginiamo però che la maggior parte dei telespettatori avesse tirato un sospiro di sollievo. A quasi un anno dal sequestro di Aldo Moro, finalmente sembrava finito l'incubo del terrorismo non rosso, che da tempo, almeno 4 anni diciamo, però potremmo anche allargare un po' questo spettro, riempiva le cronache dei giornali e che aveva fatto ammalare di terrore, per citare De André, l'opinione pubblica. Il caso 7 aprile comincia così. L'arresto, senza capi d'accusa ben definiti, di un gruppo di persone che per comodità chiameremo leader della galassia della sinistra extraparlamentare da parte delle magistrature di Padova e Roma, il quale ideatore è il giudice Pietro Calogero, intimamente convinto che le persone arrestate, tra le quali oltre al già citato Toni Negri spuntano i nomi più o meno famosi di Oreste Scalzone, Franco Piperno e Nanni Balestrini, pare che queste persone dunque abbiano in mano le fila del terrorismo rosso italiano, pare abbiano operato in simbiosi con le BR per il sequestro Moro e pare siano i manipolatori da oltre un decennio della violenza diffusa che imperversa nelle piazze e nelle fabbriche italiane. Come ricorda Giorgio Bocca in un libro scritto appena dopo nel 1980 intitolato Il caso 7 aprile, negli atti d'accusa si leggono motivazioni inedite nella giurisprudenza italiana, come contiguità fisica con il comitato d'agitazione dell'Istituto di Scienze Politiche. Altri capi d'accusa sono occuparsi di lavoro nero, in particolare dei facchini come categoria essenziale alla rivoluzione. Come se gli inquisitori mettessero per la prima volta le mani inesperte e incerte in un deposito sconosciuto di vita politica e sociale. Prima del caso 7 aprile, ricordiamolo, c'erano stati inasprimenti delle pene e limitazioni della libertà del singolo, grazie alla legge reale del 1975, che prevedeva l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga e turbamento delle indagini, estesa anche non in flagranza di reato, insieme al fermo preventivo di 4 giorni, mentre nel frattempo era diventato illegale usare caschi o altri elementi che non rendessero riconoscibili i cittadini. C'era anche stato un referendum per abrogare la legge reale, appunto, nel 1978, ma il 76,5% dei votanti scelse di mantenere la legge così com'era. Orientarsi nella complessa vicenda del caso 7 aprile è per l'appunto un po' complesso, per cui abbiamo un'invitata quest'oggi che avremo fra poco ai nostri microfoni, che è Giulia Pacifici della redazione di Zaprudere, rivista di storia della conflittualità sociale. E, ricordiamo che Giulia è stata una delle curatrici di uno degli ultimi numeri, un bel numero sulla rivoluzione d'ottobre, Caccia Ottobre Rosso, ma in questa puntata andremo a pescare un suo vecchio articolo e le chiederemo di raccontarci qualcosa in più sul processo 7 aprile, per l'appunto. Prima di passare la parola a Giulia, però, ci ascoltiamo un po' di musica. A fra poco con Balloon. Che con i bastardici nascono gli inganni di questo governo di marionette. Fottute guardie, usate le manette. Venite criminali, combinano affari, depistano, incassano e se la spassano. Sede colpa nostra, che non abbiamo questa lunga costa. Fottuta ragnatela di legge, di decreti e sporchi giochi che ci tengono segreti. Con gli senti, dei soldi concludenti, di gente che la mena, ma è legata alla catena. Bisogna rovesciare lo schema del silenzio. I colpevoli si vanno al Parlamento, attento, perché hai poco tempo. E che c'è vento che spinge, spinge, spinge, spinge, spinge come vento. We'll be right back. Ero bambino e da al telegiornale il solito cretino parlava di morte, dei giochi di corte, di quei bastardi che decidono la sorte delle torte, che a Roma si smatiscono ed aboliscono la dignità dell'uomo. Da ci viene rivista nello stato della busta, ricattano la gente, spengono la mente, spremi di cervello, alza il livello di coscienza in questa situazione di rabbia e di violenza. Denaro dalla CIA per pagare stragi, voti per appalti, tagiti dallo spazio. Proibizionismo voluto dal governo, eterno profitto ed eccolo l'inferno. Teleeroina oppure morte, se non aderisci questa è la tua sorte. Rientrati in studio con Vallund, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Per parlare ed orientarci in questa, nella complessa vicenda del caso 7 aprile, abbiamo con noi Giulia Pacifici, della redazione di Zapruder, che ricordiamo è la rivista di storia della conflittualità sociale. Intanto Giulia, ciao, grazie. No. Ciao, grazie a voi. Dai. Sì, guarda, per noi volevamo orientarci in questa vicenda che è chiaramente complicata e chiaramente non si esaurisce in questi 15 minuti di intervista, ma ti vogliamo chiedere intanto di descriverci brevemente il clima politico italiano. Diciamo, adesso noi siamo nel 79, diciamo dal 77 che è importantissimo, e com'è questo clima politico e sociale si è cambiato dal sequestro Moro sostanzialmente. Quali sono i ruoli che ricoprono il PC e la sinistra extraparlamentare nel post Moro? Allora, come hai detto bene, ci sono dei momenti molto importanti, insomma sono degli anni pregni di eventi e che cambiano sicuramente la faccia politica e sociale del nostro paese. E innanzitutto c'è stato, abbiamo ricordato, tutto il movimento del 77. Sì. La maggior parte dei gruppi politici extraparlamentari organizzati, come ad esempio Lotta Continua, Potere Operaio, si erano sciolti già intorno al 75. Certo. E dal 75 in poi l'area dell'autonomia si era sempre più allargata. All'interno di questo contesto, in cui si muovono tra le altre cose anche i gruppi clandestini di lotta armata, nel 77, i primi mesi del 77, a febbraio inizia l'occupazione delle università in tutta Italia, inizia questo movimento estremamente caotico, fantasioso, violento, indisciplinato, che lascia un po' tutti spiazzati, non solo la politica parlamentare, non solo i partiti di sinistra o di destra che all'inizio bollano banalmente come teppismo alcune forme di protesta, ma questo strano movimento di strani studenti, come è stato definito, in alcune situazioni spiazza anche la sinistra extraparlamentare. Soprattutto chi veniva proprio da quei gruppi organizzati precedentemente, che apparteneva anche a una generazione precedente, ed era molto un movimento estremamente variegato. C'erano le femministe, c'erano gli indiani metropolitani, c'erano i gruppi legati all'autonomia, quindi più organizzati, e quindi c'è tutto questo movimento, e si sviluppa soprattutto nei primi mesi del 77. Per il Partito Comunista, che aveva fatto del legame operai studenti una, insomma, una propria bandiera, questo, questo momento è stato un colpo da cui non si è molto ripreso. E scusa una cosa Giulia, ti volevo chiedere, cioè, cerchiamo di delineare un attimo meglio questo panorama dell'autonomia, che poi dopo sarà, diciamo, tirata per i piedi, protagonista anche nel caso 7 aprile. Cioè, cos'è l'autonomia operaia che emerge dal movimento del 77 e che poi è una realtà, poi magari ci direi meglio, più sfaccettata di quello che poi all'interno del processo verrà definito come quasi un blocco unico? Sì, esattamente. Allora, la definizione dell'autonomia ne vorremmo parlare a lungo. Credo che a loro volta insomma, coloro che militarono nell'autonomia abbiano opinioni diverse. Innanzitutto possiamo fare una differenziazione fra autonomia organizzata e autonomia diffusa. Allora, l'autonomia organizzata nasce ancora prima del 77 tramite delle assemblee che si tengono a Bologna nel 74 e nasce dallo scioglimento di una serie di gruppi organizzati da una forma più mobile, più fluida di praticare assemblee e momenti di piazza. Sicuramente la caratteristica dell'autonomia è questo suo essere acefala e anche molto differenziata a livello geografico. L'autonomia del nord Italia era diversa dall'autonomia romana. Era un fenomeno principalmente urbano e giovanile, estremamente radicato nelle università, ma anche nei luoghi di lavoro, poiché faceva del rifiuto del lavoro e della critica al lavoro nero tramite pratiche anche diciamo di irruzione nei quelli che venivano chiamati covi del lavoro nero, insomma di un certo impatto. Proprio per la sua mobilità, per la sua fluidità, l'autonomia è uno dei pochi gruppi che riesce a inserirsi nel movimento del 77. E proprio sempre intorno a quegli anni si inizia a parlare anche di autonomia diffusa, che era tutta quella parte, diciamo, di persone che si organizzavano autonomamente, cioè in forma orizzontale, tramite assemblee, ma che erano a loro volta ancora meno organizzati dell'autonomia operaia organizzata, che aveva una tradizione appunto più legata al leninismo e all'operaismo. E invece l'autonomia diffusa era tutto quel milieu di ragazzi, di persone che facevano gli espropri proletari, che andavano al cinema senza pagare il biglietto, che facevano, rivendicavano il lusso. Ecco, quel tipo di pratiche, quel tipo di pratiche per cui poi dopo è stata nota, diciamo, ricordata anche l'autonomia operaia italiana. Ma volevo chiederti una cosa: come si relaziona questo variegato mondo poi concretamente, cioè con quella che era l'esperienza della lotta armata? Perché ricordiamo, in sede processuale si arrivò a una coincidenza, cioè da parte delle autorità giudiziarie si cercò di far coincidere due cose che in realtà erano anche differenti fra di loro, tanto per pratiche quanto per ispirazione politica. Sì, esattamente, la definizione della relazione è proprio il nucleo centrale dell'inchiesta del 7 aprile, dell'inchiesta di Calogero. E ovviamente l'inchiesta, con il suo linguaggio, diciamo, da tribunale, riesce alla fine ben poco a spiegare rispetto a questo fenomeno complesso e che secondo me può essere indagato solo facendo estremamente attenzione alle sfumature. C'era una relazione fra questi due fenomeni. Sono due fenomeni che sicuramente si sono intrecciati, però non con rapporti di causa effetto, come spesso viene detto, insomma, utilizzando il termine terrorismo per qualsiasi pratica illegale. Tutti questi, sia chi apparteneva all'autonomia, chi apparteneva ai gruppi, chi apparteneva alla lotta armata, si considerava un compagno. Per questo, insomma, sono stati chiamati compagni che sbagliano. Riteneva di appartenere tutti alla stessa, allo stesso album di famiglia, all'album di famiglia di cui parlavo, all'album di famiglia Rossana, sì. Rossanda. E quello che si criticava era la scelta strategica e tattica. Esatto. La differenza principale sta nella scelta della pratica della clandestinità. Esatto. Quando si parla di violenza diffusa si afferma proprio questo, cioè l'utilizzo di pratiche violente ma di massa, che non prevedono il ritiro del militante in una forma clandestina, che gli fa perdere, questo secondo chi pratica la violenza diffusa, proprio il rapporto con la massa e con le masse, della scelta della clandestina. Certo. Invece però, Giulia, insomma, ci furono rapporti, alcuni imputati del 7 aprile provarono anche a stabilire dei legami più stretti di coordinazione con le Brigate Rosse. Non era una funzionale all'altra, scelta in maniera univoca e strategica. Cioè non c'è un manuale di lotte, insomma, non alla c'è fine. Un manuale di lotte, perché poi non c'è un vertice preciso da cui si diramano delle indicazioni precise. Lasciando un attimo da parte l'album di famiglia della sinistra extraparlamentare, il 7 aprile è il giorno in cui in pratica gli italiani scoprono che al vertice appunto di questo movimento, chiamiamolo così, c'è Tony Negri. Tony Negri, che è il capo assoluto del movimento delle Brigate Rosse, facendo un putpurri di tutto quello che sbagliando di tutto quello che abbiamo detto prima. Ma secondo te l'opinione pubblica, appunto, quali sono le opinioni dell'opinione pubblica, scusa la ripetizione, come la prendono i giornali, perché io leggevo anche che ci fu una grande mediatizzazione della fase istruttoria, cioè nel senso che i giudici stessi pomparono dicendo che sarebbe stato il processo che avrebbe tagliato via il terrorismo rosso e quant'altro. Come l'opinione pubblica, come reagisce a questo? Ma l'opinione pubblica reagisce, parlo soprattutto dei media, esatto, dei giornali e della televisione, reagisce in maniera quasi unilaterale, tirando un sospiro di sollievo, perché finalmente sembrava che ci fosse luce in fondo al tunnel e si iniziasse a capire cosa c'era dietro questo caso Moro. Il caso Moro, l'omicidio dello statista, fu comunque uno shock per la classe politica, ma anche per l'opinione pubblica. E sembra che, insomma, in quel periodo, per quanto riguarda le indagini sul caso Moro, dato i risultati di questa fase istruttoria, brancolassero nel buio, perché se si leggono le carte appunto dell'arresto di Tony Negri, sono così surreali che è impossibile pensare che i giudici non avessero che non ci fosse un po' un obiettivo politico di sedare un po' le acque e di iniziare comunque un procedimento, perché utilizzare alcuni capi di accusa permette di fare delle indagini che altri capi di accusa non permettono. Quindi di utilizzare lo stato di emergenza permette di fare irruzioni, mettere sotto controllo telefoni, case, pedinamenti che in altre situazioni magari non sarebbero possibili. Certo. Quindi sicuramente una parte dell'opinione pubblica fu anche contro quella che viene chiamata la parte garantista. Ci fu uno scontro di opinioni sui giornali, però le voci contrarie furono meno e avevano anche meno strumenti rispetto a tutti i media che invece appunto gridarono abbiamo trovato il colpevole. Certo. Sì, poi fra l'altro ricordiamo che una delle poche voci dissonanti, fra virgolette, venne dal mondo dei radicali, che elessero anche Tony Negri come parlamentare, mantenere, anche se poi tenere un comportamento un po' contraddittorio, diciamo. Ma senti una cosa, Giulia, volevo chiederti, proprio seguendo l'onda lunga di questo discorso, come esce la sinistra parlamentare dal caso 7 aprile e quali sono le conseguenze, se ci sono state, di questa storia? Allora, studi scientifici a tal proposito non ne abbiamo, non abbiamo molti. Sicuramente non fu un brutto colpo, perché da una parte per le caratteristiche, non tanto per i risultati del processo, del procedimento giudiziario, ma perché questo tipo di iniziativa giudiziaria ne generò altre simili, che permisero di utilizzare una serie di strumenti, quali per esempio la carcerazione preventiva, estremamente, estremamente duri. Delle persone fecero anche 5-6 anni di carcerazione preventiva, questo per il caso 7 aprile, ma poi ci furono tantissimi altri processi in tutta la penisola, per cui molte persone vennero arrestate e rimasero in attesa di processo per anni. Questo vuol dire che i compagni fuori e le compagne furono impegnate a mobilitarsi per il supporto legale, trovare i fondi per il supporto legale, fare iniziative di solidarietà. Poi non dobbiamo dimenticare che erano stati istituiti i carceri speciali e quindi c'era anche una lotta per l'abolizione di alcune ristrettezze legate al carcere. Questo sicuramente provoca anche uno scoramento, insomma, morale, molti erano molto giovani, molte persone vennero arrestate, quindi negli stessi anni iniziò a girare l'eroina. Varie persone fuggirono in Francia, dove riuscirono a non essere processate, perché insomma, per una norma francese riuscivi a ottenere l'asilo politico. Insomma, non ho dei numeri chiari, non ho delle statistiche, certo. Però sicuramente ebbe degli effetti pesanti nella sinistra extraparlamentare, insomma, sia dai. Il procedimento giudiziario che il caso Nomore di per sé, comunque lo stato di emergenza, anche se non dichiarato ufficialmente dallo Stato con, diciamo, una dichiarazione formale, però di fatto c'era. Comunque oggi, dopo praticamente 40 anni, degli studi storiografici latitano, mi sembra di capire, non sono grossi studi che possano rispondere, ecco, alle nostre domande, a parte per i dati, le ricostruzioni in sé, che sono tutte negli atti. Iniziano a esserci, ma è solo un inizio, e da parte di studiosi giovani, perché continua a essere un tema, non solo quello del 7 aprile, ma in generale l'analisi politica di quello che è stato il fenomeno dell'autonomia operaia, il fenomeno della violenza politica degli anni 70, la mobilitazione armata, continua a essere un elemento di estrema polemica politica, per cui nelle università italiane, perché per esempio in Francia è molto studiata, trova ancora poco spazio. Non è un caso che, faccio un esempio, non è un caso che nel 2010 esce un libro di Calogero in cui ripropone più o meno la stessa teoria che lo guidò nell'inchiesta del 79, e pochi anni dopo esce un libro del giudice, cioè istruttore di Padova, che aveva invece un taglio garantista, aveva un approccio garantista al processo e ebbe conflitti anche forti con Calogero, che si chiama Palombarini. Esce un libro nel 2014 che a sua volta riporta le stesse opinioni del 79, quindi sembra che non c'è un percorso, almeno da parte di chi ha vissuto quelle vicende, non c'è un percorso di rielaborazione, forse anche chiedere troppo rispetto ai protagonisti. Però penso che in futuro insomma, si studieranno di più e meglio, perché gli storici più giovani hanno meno interesse a fare questioni di partito. Bene, grazie mille a Giulia Pacifici, che è stata ospite di Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Giulia Pacifici ci ha parlato del caso 7 aprile, uno dei nodi più importanti della storia politica contemporanea, diciamo, ma anche, come ci diceva, un nodo storiografico ancora un po' irrisolto. Per orientarsi in questa vicenda ci sono vari testi, non molti in realtà. Il migliore, diciamo, che rimane ancora il testo di Giorgio Bocca, Il caso 7 aprile, un libro del 1980 scritto da un giornalista che racconta quasi in cronaca diretta gli eventi e che va a mettere il dito nei punti in cui maggiormente si sono creati dubbi a proposito di questo processo. Altri testi che vi suggeriamo sono naturalmente la collana dedicata alla storia dell'autonomia operaia, Gli autonomi, edita da Riva Prodi e curata da Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti. Nel 2010 esce per la Manifesto Libri Padova, 30 anni dopo, Processo 7 aprile, Voci della città degna, un libro collettivo che riracconta questo il peso del 7 aprile proprio in quello che fu il centro di questo processo, che fu uno dei centri dell'autonomia operaia, che era per l'appunto Padova. Restando in ambito veneto, diciamo, e padovano in particolare, vi consigliamo di andare a recuperare un documentario. Noi l'avevamo visto qualche anno fa, in una serata, Vague 61, un documentario di Manuela Pellarin, Porto Marghera e gli ultimi fuochi, l'altra storia operaia, o l'autonomia operaia nel Veneto. Qui scusate la confusione, ma è un po' difficile ritrovarne traccia. Comunque, video di questo documentario si trovano anche su internet, cercando su YouTube. Ve lo consigliamo calorosamente, perché è una voce da parte dei testimoni, di persone che vennero qui incarcerate all'interno del processo 7 aprile, in nome della loro militanza nell'autonomia operaia a Marghera, per l'appunto. E Frey, le carte del 7 aprile sono molto più vicine di quanto pensiamo, perché nel centro di documentazione Rorusso Giuliani, che si trova al VAG, ci sono tutte le carte del processo, sia dell'accusa sia della difesa. È un lavoro immane, non è stato catalogato tutto, ci dice chi ha catalogato in parte l'archivio, ma se si vogliono spulciare sono assolutamente disponibili. Sì, sono dei documenti unici e rari, proprio un bel dono che è stato fatto al centro documentazione di Vague 61 di via Paolo Fabbri. Comunque, tutte le informazioni le troverete insieme al podcast della puntata nell'articolo di presentazione. Finiamo con gli appuntamenti. Comincia, visto che siamo già al 7 aprile, la lunga marcia verso il 25 aprile. Vi segnaliamo un paio di appuntamenti più importanti. È cominciato il 29 marzo a XM24 eventi di liberazione, ieri, oggi, domani, sempre partigiani. La settimana scorsa c'è stato un ospite, che è Silvio Antonini, che avremo noi la settimana prossima ai microfoni, che ha scritto La battaglia di Cabo Street, di cui vi parleremo abbondantemente la settimana prossima. Ci saranno tante tappe di avvicinamento al 25 aprile. Io vi consiglio di andare a vedere Facebook o la pagina di XM24, dove ci sono tutti gli eventi. Altro evento sempre dello stesso genere, il VAG 61, da inizio aprile c'è anche una grossa carrellata di eventi fino al 25 aprile. Ve ne segnaliamo solo uno, gli altri li potete andare a vedere sempre sulla pagina Facebook del VAG o su Zic, che è la presentazione del libro di Valerio Monteventi. Per qualsiasi cosa, comunque, vi invitiamo a fare riferimento alla nostra pagina Facebook, caso S-Vallun On Air, Vallun con due O, e naturalmente al nostro sito internet www.radiovallun.info per avere il podcast della puntata e i podcast delle puntate precedenti. Esatto. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao!